non ha un senso, se dai tuoi occhi non ho consenso, se la tua mano non cerca più la mia, che grande follia, che grande pazzia dentro di noi, che non sai il perché, che non sai che cos'è che spezza il tuo cuore, che quando scende la sera sento il vento e una porta, siamo soli io e te, la tua voce con me. Se questa storia non dà più pace, se il tuo pensiero si fa tenace, se nella nebbia io perdo i passi, poi sarà un'agonia nell'anima mia dirsi un addio. Sentirò che respiro scioglierà la paura di essere solo, e quando scende la sera sento il vento e una porta, siamo soli io e te, la tua voce con me.